Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Oh, caro chef, come andiamo? Buongiorno a tutti, buongiorno Pier, buongiorno, molto bene. Buongiorno. La domanda famosa, hai mangiato bene questa settimana? Sì, ho mangiato bene. Bene o tanto? Both, come dicono gli inglesi, both. Bene e tanto. Oggi puntata dedicata all'uva, che è interessante, no? Interessante. L'uva è interessantissima perché... Anche in cucina. Perché dà vita a tante cose. Fino a un certo punto ha dato vita al vino e da un certo punto ad oggi ha dato vita a piatti dolci e anche salati. Assolutamente. Fra poco vi ricordo gli SS Oldani, 349-239-0191. Il più goloso riceverà il libro di ricette di Mangia Come Parli. Fra poco le nostre ricette, guarda, ti anticipo... L'uvetta piccante, capesante, insalagione e puntarelle. Tutto questo fra un attimo, ma intanto diamo il benvenuto a Carlo Pietrasanta, presidente del Movimento del Turismo del Vino Lombardo. Per me è un onore essere con voi, perché vi ascolto quando non ce la faccio in diretta, vi ascolto in streaming e mi piacete perché insegnate tante cose anche a me, anche sul vino, perché ogni tanto tirate fuori delle cose che magari mi ero dimenticato o non conoscevo. Oldani insegna, io imparo. Questa è la strategia. No. È la strategia che abbiamo messo in atto. Senti, come sta andando l'anno? Ci sono mille cose, no? C'è il Covid che influenza le nostre vite. Una volta, 30 anni fa, avremmo dovuto rispondere in maniera diversa. Oggi la viticoltura ha fatto passi da gigante, quindi riusciamo a gestire con un'attenta coltivazione delle vigne anche le annate che magari possono poi diventare problematiche. Certo, l'unica cosa che non riusciamo ancora a gestire è quando ci viene la grandine addosso. Quest'anno ha colpito in Valtellina, ha colpito in Lugana, non ha colpito nel sud dove sono io, quindi San Colombano, il vino di Milano e inoltre il Popavese. Però purtroppo è così, viviamo sotto le stelle, sotto il cielo. L'uva è buona, ci sono delle buone basi di vini, sono iniziate con le basi spumante nelle zone boccate, quindi oltre al Popavese e Franciacorta stanno continuando, ci sono ancora su un po' di uve, non tante, i rossi sul lago di Garda, inoltre al Popavese, nelle parti alte per fare i grandi rossi, cioè, quindi la vendemmia. Dimmi. Scusami, quanto la tecnologia ha influito sulla bottiglia finale, sul vino, sul prodotto, sulla qualità del prodotto finito? Ma la tecnologia influiva molto fino a 15 anni fa, 20 anni fa, ha influito molto. Negli anni 80, dopo il metanolo, ecco, precisiamo questa cosa. In cantina ha influito molto. Ha fatto fare passi da giganti. A fine anni 90 e questo ventennio degli anni 2000, più che la tecnologia è l'attenzione alla vigna, quindi un'attenzione agronomica su tutto, da cosa piantare, come coltivare, come gestire la vigna nella cosa e anche in cantina. Tu sai, Carlo, che in cucina c'è stata questa influenza, c'è tuttora, sulla quale io devo dire non sono molto d'accordo. Tu hai parlato di fermentazione, cioè la fermentazione adesso siamo arrivati a produrla su carni, addirittura a invecchiare il pesce quando il pesce è buono quando è fresco, per cui si sta girando tutto, si vuole trovare a tutti i costi un qualcosa per stupire e poi quando guardiamo bene allo shelf life dei prodotti, più freschi sono, meglio fanno al corpo e più riusciamo a dare gusto ai piatti. Io ritengo che la freschezza e oltre alla freschezza la naturalezza del prodotto che noi diamo, noi vignaioli diamo al nostro consumatore è fondamentale. Con questo non sono né un talebano del biologico, del biodinamico, cioè, l'importante è gestire, specialmente, ritorno a dirlo, le nostre vigne in primis, nel modo più giusto, più corretto, più attento alla natura possibile. Io invece volevo chiederti, visto che parliamo di turismo del vino, quanto pesa questo settore e anche, insomma, chi è il cliente medio, il turista medio del vino? Io ho la sensazione che che ci sia una crescita nella cultura, nell'attenzione, nella passione del vino da parte degli italiani, un po' come succede con la cucina. Allora, la passione c'è, la curiosità c'è, lo si vede da tante cose, anche da quanti si iscrivono a tutte le tipologie di corsi di sommelier, non per fare poi il sommelier, che è una professione bellissima. Io sono amico del capo sommelier di Davide, ci conosciamo, e quindi quelli sono i professionisti. Poi ci sono gli appassionati che vogliono aumentare la loro cultura. La gente in questi 28 anni, da quando insieme a Donatella Cinelli Colombini abbiamo inventato il movimento turismo del vino, io purtroppo c'ero allora, abbiamo fatto la rivoluzione copernicana delle visite in cantina, e la gente ha sempre più interesse. Ma di cosa ha interesse? Di toccare con mano. Quest'anno con il Covid abbiamo capito che noi vignaioli, e non siamo riusciti a sfruttarlo fino in fondo, abbiamo una grande fortuna, abbiamo le vigne. Le vigne sono un filare dall'alto almeno a 2 metri di distanza, e quando c'è la parete vegetativa fanno da parete al posto del plexiglass e così via. Quindi possiamo dare la distanza sociale. E io mi ero immaginato a maggio, quando ho pensato a queste cose, che le vigne potessero diventare, certo, il più grande ristorante all'aria aperta d'Italia, e in parte ce l'abbiamo fatta. Grazie Carlo. In bocca al lupo ovviamente a tutto il movimento del turismo, al vino lombardo, alle vendemmie. Fra poco cominciamo con le ricette, ci scateniamo. Vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SOS Soldani. Fra poco. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, siamo pronti per la prima ricetta del giorno? Sei pronto per uva, vino rosso alle spezie, Castelmagno e riso? Questo è un risotto. Stravolgi sempre la scaletta, però va bene. Preso quella sopra, la parte sopra del foglio. Sopra, prima avevi detto capesante. Ma per sì, cui quella era un teaser. Era un teaser. Allora, quest'anno abbiamo iniziato con un ingrediente per tutta la trasmissione, col quale facciamo 3 ricette, sviluppiamo 3 ricette con lo stesso ingrediente, 3 prodotti della stessa tipologia, però diversi, e diamo anche il prezzo per un'economia applicata alla famiglia. Allora, la prima ricetta che facciamo, utilizziamo un'uva, possiamo utilizzare un'uva Italia tranquillamente, che costa dai 2,50 euro ai 3 euro al chilo, per cui diamo anche questo tocco di economia, visto che siamo a Radio 24. È molto semplice: prendiamo la nostra uva, prendiamo i chicchi, li sbucciamo con un coltellino, li tagliamo a metà, leviamo nel caso ci fossero dei piccoli semini all'interno, li mettiamo a cuocere per un paio di minuti, non di più, con del vino rosso, per cui sappiamo tutti quanti che che l'uva all'interno, che abbia una buccia rossa o gialla, all'interno è bianco. Per cui io prendo l'interno di questo acino, lo metto a cuocere per un paio di minuti con del vino rosso, con una stecca di cannella, una stella di anice stellato, appunto, scusate la ripetizione della parola, 2 chiodi di garofano. Una volta che abbiamo lasciato in infusione per un paio di minuti, quindi facendo sobbollire, filtriamo, separiamo i nostri acini d'uva e li teniamo da parte. Naturalmente il riso per me, come oramai anche Pier sa, è un foglio bianco, per cui lo cucino facendolo tostare senza nessun olio o burro, senza soffritto. O cipolla, esatto, senza cipolla. Nessun soffritto, è stato quindi soffritto. Facciamo tostare per bene il nostro riso, per cui prende il profumo intenso del riso, bagniamo con un po' di acqua per volta. Più o meno il mio Carnaroli di 18 mesi di stagionatura impiega dai 16 ai 18 minuti. Verso la fine leviamo dal fuoco, mantechiamo con pochissimo burro, un po' di aceto che va a contrastare la basicità del riso, un pochettino di grana, io utilizzerei un grana sopra i 24 mesi, quindi con meno lattosio, quindi con un po' più di profumo. Una volta che abbiamo la base di questa mantecatura, di questo velo di riso che andremo a mettere sul piatto, cospargiamo con delle piccole scaglie di Castelmagno, di 90 giorni anche lui di stagionatura, e poi i nostri acini d'uva che nel frattempo a mollo, cotti leggermente col vino rosso, si saranno trasformati con da bianco o da giallino a rosso, e questa acidità che in più gli dà nella cottura il vino e il profumo delle spezie è la tonalità che dà maggior risalto a questo piatto molto classico. Molto interessante, molto, devo dire molto classico. Poi tu hai giustamente hai questa passione per gli ingredienti, no? Anche questa attenzione agli ingredienti, quindi li metti uno dopo l'altro come zafferano e riso, che piace al nostro presidente Mattarella. Esatto, esatto, soprattutto il riso lo metto sempre alla fine perché credo sia l'ingrediente che abbia meno profumo rispetto alle spezie o al castelmagno o all'uva stessa che abbiamo messo nel piatto, per cui è solo quello che aiuta a dar valore a questi ingredienti, che però nutre le persone, perché tu sai che il riso è l'ingrediente più utilizzato al mondo. Esatto, perché insomma rispetto alla pasta sicuramente ha una, diciamo, diffusione ancora più capillare, no? Ancora più mondiale. Assolutamente, poi è una lavorazione diversa, è più certo. Si raccoglie, si lavora leggermente e poi quindi evidentemente in tutto il mondo è perché il costo è molto basso, ecco. Assolutamente. Paolo Della Mora, produttore di gelato, è con noi perché insomma anche questo settore, noi quest'anno in maniera particolare, devo dire anche rispetto alle edizioni precedenti di Mangia Come Parli, cerchiamo di stare molto sull'attualità perché chiaramente questo è un anno diverso da tutti gli altri e insomma, e ci sono quindi tematiche importantissime. Come stai Paolo e come se la cava il gelato in questo strano, terribile per certi versi 2020? Ciao a tutti, grazie. Ciao Paolo. Ciao Davide, ciao Pier. Ma il gelato in realtà in questo periodo sta sopravvivendo, sta andando abbastanza bene. Noi stiamo vedendo che le gelaterie italiane stanno lavorando bene, anche perché devo dire c'è stata una bella conversione tra il turista straniero che è un po' sparito in Italia verso gli italiani che sono rimasti qua e hanno consumato un sacco di gelato qui. Tantissimo turismo interno, insomma ne parlano gli urbanisti, ne parlano i politici, ne parlano gli amministratori su quella che sarà la società post pandemia, no? Post lockdown, ovviamente con più smart working e magari con una tendenza a viaggiare a livello internazionale meno spiccata, e allora a maggior ragione bisogna riscoprire i luoghi di prossimità. Quest'anno ci sarà molto turismo nei luoghi di mare, insomma, si è mangiato tanto gelato. Ma lo zabaglione, posso fare una domanda sullo zabaglione? L'ho già fatto. Aspetta, ma lo zabaglione, poi d'uva, Paolo, ti dico, adesso stiamo sì, andando. Però, ma perché lo zabaglione? Lo zabaglione non è così, non lo trovo quasi da nessuna parte. Lo zabaglione, che è il gusto più buono del gelato artigianale al mondo. Forse Davide sarà un pochino più preparato di me. No, devo dire Pier che sì, lo zabaglione è un gusto che un po' è andato nel dimenticatoio in gelateria. Ma come si fa? Ma come si fa? Posso lanciare un appello agli zabaglioni d'Italia? Ma certo, assolutamente. Ma è una cosa, lo zabaglione è il gusto più buono che c'è. Evidentemente perché c'è una parte di alcol, per cui non è forse quella che mi piace. Quel gusto di gelato che si spiega, insomma, tutti quanti possono amare, rispetto magari a una crema fatta con i tuorli d'uovo, stessa artigianale, senza l'utilizzo del liquore. Come si vede il mercato fra artigianale e industriale? Ma allora, l'artigianale in Italia è enorme. Pensa che ci sono praticamente 30.000 gelaterie, oppure ibride tra pasticcerie e gelaterie. Devo dire che il mercato artigianale sta crescendo un pochino, tipo una cifra. Invece il mercato industriale sta crescendo molto, ci sono tante aziende a livello industriale che stanno facendo un sacco di marketing, stanno facendo anche dei prodotti molto buoni. Diciamo che i due mercati a livello di volumi si equivalgono, però quello industriale cresce un pochino di più. Noi in realtà vendiamo molto all'artigianale, quindi ci auguriamo che sia una continua riscoperta di queste vecchie ricette come lo zabaglione che possa, diciamo, portare avanti il settore, ecco. Senti Paolo, io invece vado diretto sull'ingrediente di questa della trasmissione di oggi, cioè l'uva. Voi avete riscoperto qualcosa, siccome ogni anno proponete alcuni gusti nuovi, qualcosa di nuovo sull'uva, visto che adesso ci sono più qualità, più tipologie di uve rispetto a qualche anno fa? Io ti posso parlare dell'uva americana o l'uva fragola, come si chiamava una volta a Milano, dell'uva Italia, dell'uva, un'altra uva con la bacca, cioè con la buccia rossa e naturalmente l'interno bianco, come dicevo prima nella ricetta. Avete fatto qualcosa per il mercato oppure state pensando? Perché in effetti l'uva è un prodotto neutro che secondo me può piacere al più delle persone. Esatto, noi abbiamo fatto qualcosa negli ultimi mesi e l'abbiamo fatto anche perché l'uva fragola americana, io la chiamo fragola perché da me, io sono friulano, dalle mie parti si è sempre chiamata fragola. E l'ho fatta anche perché io ho un grande forte ricordo della uva fragola, perché quando camminavo a settembre per andare a scuola, da casa mia a scuola, sentivo questo grandissimo profumo, questo fortissimo profumo che usciva dai cortili di Udine, e quindi mi è rimasta questo dolcissimo ricordo. E tra l'altro pensa che con mia zia, sempre a Udine, avevamo un giardino bellissimo con delle piante di uva fragola, io e i miei fratelli a settembre andavamo da mia zia, facevamo la vendemmia e poi, pensa, facevamo il vino presunto tale, perché vino in realtà non si può chiamare, esatto, fragolino, esatto, con i piedi nei tini di plastica, certo, e poi a settembre ci bevevamo questa cosa che era, diciamo, metà tra una buona bibita e un cattivo aceto, eravamo tutti contenti. Perché... Anche se devo dire che nella tua zona si beve, vabbè, io poi sono un grosso bianchista, nel senso che bevo tanto, ma devo dire che insomma il Collio è veramente un paradiso per noi che amiamo il vino bianco fermo. Quindi ci aspettiamo un gusto di uva fragola a questo punto. Sì, guarda, abbiamo fatto un sorbetto, quindi un gelato, diciamo, composto da... Il sorbetto è un gelato composto da acqua, zuccheri e frutta, ovviamente, con un po' di stabilizzanti, ovviamente tutto naturale. L'abbiamo fatto proprio con l'uva fragola, che ha rappresentato veramente un pezzo di storia vitivinicola europea. È un prodotto assolutamente emblematico delle nostre campagne. E appunto per celebrare il profumo dell'uva fragola abbiamo fatto questo sorbetto. Abbiamo utilizzato il 50% di frutta. Di solito si usa il 25-30%, noi abbiamo alzato appunto la quantità di frutta per dargli appunto questo profumo incredibile. Tra l'altro l'uva fragola ha una particolarità, che avendo un tenore di zuccheri superiore al 17% circa, la frutta in realtà intorno ai 10%, quindi andrebbe corretta un po' in ricetta, avendo un alto tenore di zuccheri abbiamo potuto ottenere un risultato buonissimo, ancora più naturale, non aggiungendo troppi degli zuccheri che normalmente si aggiungono nel gelato. Più fruttosio, quindi, solo fruttosio. Esatto. Più fruttosio, meno saccarosio e destrosio, che sono zuccheri ovviamente naturali, che però si aggiungono poi in ricetta. Grazie Paolo. In bocca al lupo, vado a cercare lo zabaglione da tutte le parti. Allora, vediamo se ho studiato bene. L'uva è un'infruttescenza, lo sapevi? Cioè un raggruppamento di frutti, che sarebbe il grappolo, il raspo e il grappolo, cioè il grappolo si compone di raspo e di acini. Chiaramente la produzione del vino è il tema fondamentale, è il maggior utilizzo che esiste dell'uva, ma c'è anche il consumo alimentare con l'uva alla tavola e c'è anche la possibilità ovviamente dell'uva secca che può essere utile per tutte le preparazioni di cucina e pasticceria. Con quello che rimane della spremitura per il vino cosa si può fare? L'olio. Giusta cosa, sai Pier? Certo. I semini, no, l'olio dai semini, della però tutto il resto, la buccia che rimane viene messa a... fare una grappa. Certo, fra l'altro però giusta cosa, dai semini dell'uva noi li prendiamo essiccati al ristorante, abbiamo una macchina particolare che ci spreme questi semi, da una parte mette la crusca e dall'altra l'olio, la piccola parte di olio che viene fuori, che è una cosa fantastica, è un profumo di uva. E fra l'altro lo diciamo, siamo i primi produttori al mondo di uva alla tavola, quindi insomma maggiore è il consumo, maggiore è soprattutto la sottolineatura della qualità del nostro prodotto e maggiore è la crescita per tutto il made in Italy. Fra poco ritorniamo, vi ricordo il numero degli SOS Oldani, 349-239-0191, Spazio News, molte altre sorprese e altre ricette. Mangia come parli. Allora, siamo pronti e stiamo per dare il benvenuto a un uomo che è di casa, Radio 24, professor Manera. Come cosa si prova anche di sabato, Manera? Cosa si prova a non avere Milan in questo momento dalle due parti, ma lo chef Oldani? Lo chef Oldani è sempre un piacere, perché spero che prima o poi mi inviti gratuitamente nel suo ristorante. Ecco, precisiamo. Che, anche perché tu sei venuto qualche anno fa, insomma, tu hai scoperto da un po' di anni fa. Ho pagato, naturalmente. Quanto quindi hai pagato? Quando lo incro... E avrò pagato, secondo me, eravamo in un gruppo di 7-8 persone, avremmo pagato intorno ai 1000 euro. Cancella subito, non è possibile. Diciamolo che non è vero. Ma non è possibile. No, non ricordo sinceramente. 6-7 avranno speso 70 o 80 euro, perché avranno preso il menù a 11,50. Menù a 11,50? Quello che faceva a pranzo, quando abbiamo aperto. E non lo fai più. No, insomma, siamo evoluti. Non è che, non è che abbiamo alzato i prezzi, però quella famosa proposta dell'ottobre 2003 l'abbiamo portata avanti qualche periodo e lui veniva, è vero, mi ricordo, no? Io vorrei venire a cena con lo stesso menù di allora. Ma facciamo un trattamento Manera a 11,50 euro. Lo estendiamo anche a me. Facciamo una cosa così. Mi sembra una convenzione. Potremmo fare la convenzione Radio 24. No, facciamo la convenzione Radio 24. La estendiamo subito. Scusate, oggi c'è anche la regia, mi aiutate perché domani mi sa che il ristorante. Ma no. Dici che chiude. Vabbè, noi ti assumiamo. Senti, che rapporto hai col cibo e soprattutto insomma la satira? Satira e pane, satira e pasta, satira e vino. Insomma, è un sono compagni di viaggio il cibo e la satira? Allora, il cibo, io ho abitato tanti anni da solo, quindi ho mangiato le peggiori schifezze. Abitando da solo per anni, mi sono nutrito per anni di scatolette di tonno, sono arrivato a mangiare perfino il pan grattato con l'aceto balsamico. Mamma e credo sia. Mamma mia, ragazzi. Tengo a precisare che noi alcuni ospiti così li aiutiamo, voglio dire. Li aiutiamo a crescere, a evolversi, a evitare il pan grattato con l'aceto balsamico, che mi sembra veramente una delle cose più ardite che io abbia mai sentito. Però, com'era, buono? Si viaggia. Ma sì, basta abituarsi e poi tutto è decente, gradevole. Io ho mangiato invece spesso pasta e niente, cioè la pasta senza niente, con l'olio sopra perché non so per niente fare acqua. Questo anni fa, adesso ormai ho conosciuto il Dani e quindi sono molto migliorato. Sì, faccio dei soffretti. Invece viaggiando molto per fare gli spettacoli ci si ferma spesso nelle aree di servizio e prima si mangiano sempre i panini, poi invece fermandosi spesso si comincia ad apprezzare anche proprio il piatto classico, il primo e il secondo, e poco alla volta cominci a fermarti a mangiare proprio nell'area di servizio. Ci vai quasi apposta. Qual è la tua preferita? Cioè, hai un'area di servizio preferita? Beh sì, naturalmente. C'è, vicino a Verona c'è un'area di servizio, si chiama Monte Alto, dove trovi dei piatti che normalmente non si trovano in altre aree di servizio. Quindi quando posso mi fermo sempre lì. Tutti a Monte Alto. Sull'autostrada a Torino-Savona hanno chiuso settimana scorsa un'area di servizio dove era gestita come se fosse un ristorante quasi di fine dining, ed è da 50 anni che facevano. C'era e secondo te può avere un senso? Può avere, era l'unica, poi per questioni di età evidentemente i proprietari hanno mollato e hanno ceduto, credo, a qualche grande gruppo. Infatti era citata come l'area di servizio più dove si mangiava meglio, sulla Torino-Savona, in direzione Torino, partendo da Savona, la prima che si incontrava. E adesso, quindi io farei con Manera, farei una guida delle aree di servizio fine dining d'Italia, cosa dici? Ma io sono d'accordo, anche perché per chi è spesso in giro l'area di servizio diventa un punto di riferimento, comincia a conoscere anche le persone che ci lavorano, e quando una persona comincia a salutarti perché ti ha già visto prima in area di servizio, in qualche modo ti senti a casa e sei pronto a mangiare anche il paninato peggiore. Questa è l'accoglienza all'italiana che fa la differenza tra noi, tra l'Italia, la bella Italia e il mondo. Senti, ma una ricetta a parte pan grattato che secondo me ci sta, però, e aceto balsamico, che fai a tuo figlio, perché so che cucini per tuo figlio spesso e volentieri. I piatti preferiti di mio figlio, tra quelli che faccio io, sono due: sono gli gnocchi al pesto di pistacchio. Sì. E poi la carbonara semplice, cioè la carbonara senza formaggio. In particolare gli piacciono gli gnocchi al pesto di pistacchio. Allora, perché io... Ma ce la puoi aspetta, dire? Abbiamo un jingle, vai. Gli gnocchi al pesto di pistacchio. No, non è il pistacchio di Manera. Di pistacchio, eh? No, cioè, però suona il pistacchio di tipo Bronte. Non è Manera, è Bronte, ok. Il pistacchio di Manera, vai. Allora, prendo il pesto di pistacchio, lo faccio sciogliere un po' in un po' d'acqua tiepida, e poi nel frattempo faccio tostare delle bricioline di pane. Aggiungo le bricioline di pane del pesto di pistacchio sciolto nell'acqua tiepida, poi semplicemente quando gli gnocchi sono pronti li faccio saltare un po' in padella e il piatto è fatto. No, aspetta, una non correzione, convinto, correzione. Fatta una faccia. Ma gli gnocchi li compri o li fai? Vabbè, ovviamente li compro, non puoi essere. Allora, la prossima volta, che veloce, casa, allora, dai. Un jingle per me, un veloce la ricetta degli gnocchi. Vai. Un chilo di farina, proviamo una 00, può andare bene, magari un etto di semola, la puoi aggiungere. Un uovo intero, una grattugiata di noce moscata e 300 grammi di patate sbucciate e schiacciate. Naturalmente, quando si forma questo impasto, bisogna lavorarlo a patata calda e soprattutto abbastanza velocemente senza schiacciare troppo, per cui non deve diventare un impasto elastico, dopodiché si formano gli gnocchi e si cuociono. Poi mai utilizzare la terminologia saltare in padella gli gnocchi, perché è un prodotto molto delicato. Quindi se salta si fa male, si rischia di rompere. Se salta si fa male. Infatti io li giro delicatamente col cucchiaio, così va bene. Ma è fantastico. Hai visto Leo con quale semplicità? Proprio sta lì, dice: prendi un chilo di farina, poi le patate. Sì, è fatto. Poi ci vuole la manualità, mica. Ho capito. Nessuno nasce imparato, come dicono da qualche parte, però si può magari con un po' di tecnica, un po' di buona volontà, arrivare a fare dei super gnocchi. Senti, Milan, Come faccio a prendere dal pastone che ho fatto a ricavarne lo gnocco? Una volta ho detto si vanno lavorati, ma con delicatezza e abbastanza velocemente. Cioè a mano, va fatta a mano. Sì, dopodiché si forma un leggero salame, sarà di 10 cm di diametro, il quale viene tagliato, arrotolato ancora, viene tipo una penna, il diametro è quello di una penna, più o meno mezzo centimetro, e poi si tagliano i piccoli gnocchi della misura che si vuole. La cosa importante per i gnocchi, quando li fate a casa, io consiglio sempre di utilizzare il rigagnocchi, perché il fatto che uno metta il dito in mezzo e lo righi, quella parte all'interno, quando va nell'acqua, cuoce. Quando vedo gli gnocchi serviti che hanno solo il pezzo così per la velocità senza essere rigati, diffido un po' dalla bontà della persona che l'ha fatto. Per Natale ti regalo un rigagnocchi, va bene Leo? Bellissimo regalo. Grazie Leo, mi raccomando. Ciao. Continuiamo a seguirti tutte le mattine. Possiamo aggiungere due uvette piccanti a quei gnocchi, a quegli gnocchi possiamo aggiungere due uvette appena piccanti, visto che siamo nel tema dell'uva. Certo. Adesso volevo andare nella seconda ricetta, si può partire con la seconda? Ma io volevo fare, partiamo con la seconda. Vabbè, mi sembra una buona idea. Che abbiamo usato l'uvetta per i gnocchi. Quindi uvetta piccante, capesante, insalagione e puntarelle. Questo è molto semplice, anzitutto diamo il prezzo, la quotazione della settimana dell'uvetta di 4 euro più o meno 4 euro al chilo. Questo è molto semplice, prendiamo la capasanta, la noce di capasanta, la facciamo marinare con 20 grammi di zucchero, 10 grammi di sale per almeno 24 ore, anzi aggiungiamo una grattugiata di scorza di limone e scorza d'arancia. Passate le 24 ore, le leviamo dalla marinatura, le laviamo, le tagliamo a fette sottili e le distendiamo e le stendiamo su un piatto piano, e a parte avremo tagliato le puntarelle che prima lasciate raffreddare con un po' di acqua e ghiaccio, molto per dargli quella parte croccante molto importante che sarà il risultato finale poi del piatto. Quindi queste puntarelle scolate, asciugate, tagliate con l'affettatrice molto molto fine, condite con un velo d'olio, messe sopra al nostro carpaccio di capasanta. Dopodiché finiamo con un condimento fatto con due filetti di acciuga miscelati e frullati con un decilitro di olio di oliva extravergine e il succo di mezzo limone. Quindi condiamo le nostre puntarelle con la nostra capasanta e in ultimo andremo ad aggiungere 5-6 uvette, numeri, pezzi, che avremo precedentemente messo a bagno in acqua, zucchero e peperoncino, poi scolate, per cui questa uvetta sarà un'esplosione di gusto sia nella dolcezza sia nel leggero piccante che su un piatto del genere molto delicato ci può stare. Assolutamente, io coinvolgerei Maria Botter di Venezia Eventi, perché dobbiamo parlare delle osterie, delle meravigliose osterie veneziane dove si bevono le ombre o i cicchetti a seconda dei punti di vista. E come si chiama? Buonasera Botter, buonasera. Sì, buonasera. Anzi, buongiorno, che buonasera. Buongiorno. Come si chiamano? Come si chiama? Come si chiamano? Si chiamano? Allora, sono i Baccari. Sì. Sono le osterie di Venezia. I Baccari, e non i Baccari come diceva qualcun altro. Baccari. Che si degustano i cicchetti e le ombre. Ok, la differenza fra cicchetti e ombre, facile. È sostanziale, perché esatto. I cicchetti sono i crostini, diciamo. Esatto. Mentre le ombre si bevono, quindi una si mangia e l'altra si beve. E fin qui, esatto. Mi sembra viene chiamata, posso dire anche perché viene chiamata ombra, certo. Che è una carina, certo. Perché praticamente quando facevano la degustazione del vino erano all'ombra del campanile di San Marco, quindi a seconda dell'ombra del vino insomma si spostavano per tenerlo in fresco. Ma questa è una storia fantastica. Sì, questa è la storia dell'Italia. Com'è stata l'estate e che progetti ci sono per l'autunno per una città così bella e così importante come Venezia? Allora, l'estate è stata abbastanza tranquilla, E diciamo che i bacari soprattutto comunque sono dei hanno vissuto comunque, siccome sono piccolini come posti, certo. Sono posti grandi e arrivano, cioè hanno avuto il plateatico gratuitamente, quindi sono riusciti comunque ad avere una buona estate, insomma. Perché non ripartire proprio dai centri storici delle grandi città in questo autunno per riuscire a portare a casa risultati turistici importanti? Ne parliamo fra poco e poi abbiamo ancora un'altra ricetta, abbiamo lo Spazio News, abbiamo gli assoldati fra poco. Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no. Sei disperato? No, non sono disperato. Sei solo? Non sono solo, c'è mia compagna. È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi. Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic. Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti. Cioè, come faccio? Vieni su Telegram, sì? E cerca Off Topic _ 24. E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina. E faccia un sorriso! Si diverta! Ma no, ma ne... Che la vita già dura poco! Ma no! I cantanti Ghali e Mahmood, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24. Mangia come parli, mangia come parli. Allora vi ricordo fra poco essere soldati 349-239-0191 con il libro di Mangia come parli con tutte le ricette. Si sta anche diversificando l'offerta in questi meravigliosi locali veneziani, insomma il cibo vegano, il cibo senza glutine, una certa attenzione per il cibo etnico. C'è anche questo pur nel rispetto della tradizione dei cicchetti veneziani? Io intanto vi volevo stilare una piccola lista, cioè una piccola lista appunto dei cicchetti, sì. I cicchetti più famosi a Venezia, che secondo me già questi basta e avanza. Al primo posto, perché siccome noi abbiamo inventato la mappa per andare a Baccari, sì. Quindi abbiamo chiesto a tutti i nostri, quelli che ci seguono insomma sui social, i loro cicchetti preferiti. Dimmi che c'è lui, comincia con la B di Bac. Crostino con bacalà mantecato, certo. O in teccia? Sì, sì, bacalà. È bacalà. E anche in teccia, non so se l'avete mai assaggiato, che sarebbe quello in umido, che è buonissimo. Buono. In teccia, sì. Sì. Poi c'è, ci sono ovviamente le polpette, sì. Di carne o di pesce. Sì. Poi il classicissimo mezzo uovo con l'acciuga. Ah, che sì. È sempre buono, però non tanti ce l'hanno, però è storico. Poi nervetti con la cipolla. Nervetti. Poi fiori di zucca fritti con ripieno di mozzarella e acciuga, che sono squisiti. Delicatissimi, sì. Le sarde in saor. Mozzarella in carrozza al prosciutto all'acciuga. Musetto caldo con la polenta. Che è il salume. I bovoletti. Che sono i bovoletti? Sono le lumachine, quelle con l'aglio e prezzemolo, che soprattutto quando c'è il redentore, esatto. Certo. Ecco, questi tu invece cos'è che volevi? Che no, il baccalà, io mi hai accontentato subito, io volevo il crostino di baccalà, che è una cosa mantecato, è una cosa fantastica. Io vedo, no? Io può mancare una bella moeca, naturalmente nel momento, nella stagione giusta, e magari mi reinventerei uno con il fegato alla veneta, perché non puoi fare a meno del fegato alla veneta. Puoi fare lo facciamo? Diciamo che nei bacari, siccome fanno le cose così fatte pronte, perché non è che tanti non hanno la cucina, quindi la moeca sicuramente, però è difficile trovarla in un bacaro, a meno che non sia un bacaro, non lo so, penso che non c'è ancora il bacaro che lo fa. Beh. E il fegato alla veneziana lo stesso, perché è più una cosa da ristorante. che ovviamente è deliziosa. Assolutamente. Certo. Poi adesso oramai con la cucina moderna si può. Ma io sono contento. Si può girare, io si può provare anche queste nuove cose. Grazie Maria. Grazie, complimenti. Maria. Viva Venezia, eh? Veniamo a trovarti. E, insomma, l'invito è quello, perché insomma le grandi città hanno faticato un po', no? Sentivo anche Barisoni qualche giorno fa che ne parlava rispetto alle località montane, ma è abbastanza ovvio durante l'estate. Adesso insomma, visto che il turismo internazionale in questo momento è in difficoltà, andiamo a riscoprire il centro delle grandi città italiane, le città d'arte. Vai con lo Spazio News. Allora, guida Michelin, non so cosa ne pensa Oldani, ma il collezionista dei ristoranti tristellati critica la Bibbia dell'alta cucina. Maurizio Campiverdi dice che sono troppi, racconta la storia dei 286 locali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento e parla di manica larga. Poi insomma, l'inseguimento della terza stella è spesso motivo di grande stress. Per voi quanto il vostro stress è quello? Noi telecronisti abbiamo paura di sbagliare il marcatore di un gol in una partita, questo è il nostro stress massimo, e noi abbiamo paura di sbagliare il piatto che esce dalla cucina alla sala per ogni ospite. Infatti, la proporzione è quella. Ci sono stati addirittura dei suicidi, insomma, come tutti i lavori, come tutte le professioni, c'è un elemento di stress, di emotività che è molto forte. Da Forno Brisa benvenuto, così il crowdfunding fa crescere le startup del food. Insomma, siamo sempre molto attenti alle novità, soprattutto alle novità dal punto di vista delle idee, dal punto di vista dei progetti, e ci sono davvero un costante aumento del crowd investing, ovviamente questi investimenti basati su queste piattaforme che riescono a raccogliere direttamente i fondi sul web, e il rapporto con il food ovviamente non fa eccezione. Quindi il report italiano sul crowd investing degli osservatori del Politecnico di Milano ha dato proprio questo tipo di risultato. Boom di natura ben diversa è quello delle mandorle, ma anche questo è un boom. Se ne vendono in un anno 8 milioni e mezzo di chili per 130 milioni di euro. E anche qui c'è grande attenzione a tutto il mondo bio, c'è stato l'ingresso del fondo Progressive Investimenti 3 che sta dando ancora più spinta a Damiano, che vuole diventare la prima azienda bio al mondo, insomma un settore in grandissima crescita. Invece per quanto riguarda l'ortofrutta, il Covid e l'allarme legato alla manodopera nei campi non hanno fin qui frenato la crescita, anche qui c'è una crescita del 7,6% nel primo semestre, molto bene anche le esportazioni, però molti prodotti che un tempo erano punto di forza Italia vengono importati, e questo è un piccolo dolore, no Davide? Pensare per esempio agli agrumi che arrivano da fuori. No, l'unica cosa, la salvezza nostra sarà, io sono sempre più convinto, che è quella di seguire il nostro microclima che abbiamo e poter sfruttare il prima possibile per noi i prodotti, e poi nel caso alcuni utilizzarli per le esportazioni. C'è un saldo commerciale comunque positivo nel primo semestre del 2019 di circa 102 milioni, quindi questo è assolutamente importante. Io do il benvenuto a Alberto Cortesi, che è presidente di Confagricoltura di Mantova, anche perché siamo pronti per il Food and Science Festival. Coltiviamo conoscenza, è così? Proprio così, buongiorno. Buongiorno Alberto. Siamo arrivati alla quarta edizione. Sarà un'edizione di coraggio, perché insomma, per volerlo fare quest'anno ci è voluto tutta la determinazione e il coraggio. Un po' anche di ottimismo, no? Nei momenti più difficili, nell'immaginare che fosse possibile, ovviamente con tutta una serie di misure anti-Covid e di precauzioni. Sì, proprio così. Ma d'altronde il tema che avevamo scelto ancora un anno fa, metamorfosi, che sta proprio per cambiamento, adattamento, abbiamo dovuto applicarlo immediatamente per poter organizzare comunque il nostro festival, e quindi ci siamo adattati a un festival un po' diverso, ma però ancora sostanzialmente con le caratteristiche di sempre. Le caratteristiche di sempre, che sono poi quelle, Mantova è perfetta da questo punto di vista, perché sembra proprio una città ideale, penso al Festival della Letteratura, per questo tipo di manifestazioni, Piazza Mantegna, Piazza Sordello, il Palazzo Ducale, c'è tutta una serie di Giulio Romano, cioè c'è tutta una serie di luoghi che sono assolutamente straordinari. Vogliamo ricordare l'appuntamento dal 2 al 4 ottobre, e poi leggevo che anche a proposito di quello che dicevamo prima ci sarà anche il crowdfunding per la prima volta, no? Una libera campagna di crowdfunding, che cos'è? Anche questo, ma noi avevamo notato che sempre più persone si erano affezionate tantissimo a questo festival, e per fare un festival sempre migliore servono comunque tante risorse. Abbiamo quindi ritenuto di poter cedere un pezzettino di festival a chi volesse, quindi dare un sostegno economico e sentirsi così più partecipi al festival, quindi abbiamo abbiamo iniziato con questa campagna. E fra l'altro ci sono temi che stanno particolarmente cari al professor Oldani, come quello dello spreco, il rapporto fra suolo e territorio, la percezione pubblica degli ingredienti, la stagionalità, l'alimentazione, la scienza in cucina. Dunque dal 2 al 4 ottobre a Mantova. Tutti grazie a Mantova. Grazie Alberto per grazie questa Alberto. Bella iniziativa. E adesso SOS Oldani, vai! SOS Oldani. Gaia. Da dove? Ciao, chef. Da Peschiera Borromeo. Vai. Ciao chef. Stavo mangiando degli arancini e mi chiedevo se si potessero fare invece che con il riso, magari con la pasta, e in caso con quale tipo di pasta si possono fare meglio. Gli arancini. Ma di pasta. Io andrei a utilizzare una pasta molto simile al riso, quindi una pasta di dimensione molto piccola, che è il risone. Il risone. Perfetto. Perfetto, ci può perfetto. Stare, no? Ci sta, ci sta. È possibile lavorarla, è possibile dare la forma dell'arancino. Paola da Torino. Ciao chef, mi suggerisce un modo per usare i fichi d'India? Tutti quei semi non riesco proprio a gestirli. Grazie. Direi molto semplice, vanno tagliati, possibilmente poi frullati, filtrati, utilizzato il succo. Poi con questo succo puoi creare o una salsa per un dolce o un sorbetto, direi. Gabriella da Padova. Buongiorno Oldani. Ho letto che molti chef combattono contro lo stress da lavoro. Lei come lo gestisce? Bella domanda, bella domanda. Torniamo al tema di prima. Lo stress da lavoro lo gestisco con la passione che ho per il mio mestiere e sapendo che. Comunque l'incubo mi può quello dare... che dicevi prima? L'incubo vostro? L'incubo, no, la preoccupazione. No, la preoccupazione è quando un ospite entra al ristorante e di renderlo felice in ogni punto, dal menù al servizio, dal cibo al servizio. Poi devo dire, lo stress ce l'hai in tutti i lavori se non li affronti con una qualità giusta, che è quella della passione. Per cui sì, forse c'è un po' di stress, però c'è altrettanto 10 volte di più la grande soddisfazione di poter fare un bel mestiere. Qual è il più goloso dei tre? Io un'idea ce l'ho. Sì, la domanda potrebbe essere quella che si può cambiare. Insomma, Gaia da Peschiera, Gaia, secondo bravo. Me può andare. Viva il carboidrato, viva Pier. Allora, ultima ricetta, vai, dobbiamo un po' correre. Andiamo, sorbetto di uva fragola e minestrone di frutta e verdura. Allora, qui è molto semplice, prendiamo 400 grammi di uva fragola che naturalmente abbiamo lavato, li aggiungiamo in una pentola con 90 grammi di zucchero e un decilitro di acqua, facciamo bollire, mettiamo in un frullatore, frulliamo fino a ottenere una purea, passiamo al setaccio fine e mettiamo a mantecare il nostro sorbetto. A parte abbiamo preparato 50 grammi di mela tagliata a cubi, più o meno da un centimetro, il kiwi anche lui sbucciato, tagliato a cubi, poi possiamo utilizzare del sedano bianco, perché ho detto minestrone di frutta e verdura, per cui sedano bianco anche di 50 grammi tagliato a pezzi più o meno da un centimetro, anche lui sbucciato. Poi possiamo utilizzare una carota, magari una carota viola o una carota bianca, un centimetro, prima sbucciata poi tagliata per un centimetro. Cuociamo queste verdure proprio per 30 secondi in acqua bollente zuccherata, non salata, e un goccio di succo di limone. Dopodiché avremo fatto raffreddare le nostre verdure, le condiamo, ascoltate bene, con un velo di olio di oliva extravergine o anche un olio di semi di lino che magari è leggermente più amaro, e poi aggiungiamo il nostro cucchiaio, mettiamo in una ciotola, aggiungiamo il nostro cucchiaio di sorbetto e due scaglie di sale grosso sopra. Fantastico. Quindi sale, zucchero. Uva fragola al chilo? 3 euro? Uva fragola 2,80 euro ai 3 euro al chilo. Bene. 3 euro. Ce l'ho nel mio giardino. Produce? Per il do abbiamo una piccola produzione di uva fragola della mia casa. Per i più mia. Fortunati. Grazie chef. Grazie Piero. Prossimo grazie weekend. I funghi prossimo weekend. Roba funghi, di funghi. Funghi, ah, funghi. Benissimo. Vai. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.